abbiamo organizzato questo, se vogliamo chiamarlo, piccolo ciclo di incontri, di seminari, che partono dall'incontro di oggi e proseguiranno per le prossime 3 settimane, su un ambito, per dei motivi che adesso, brevissimamente, prima di lasciare la parola al professor Granata, vorremmo cercare di spiegarvi. Ovviamente, vabbè, il tema centrale è il 25 aprile, l'anniversario della liberazione. Il problema da cui siamo partiti è quello, se il 25 aprile e appunto, la ricorrenza della liberazione dal fascismo siano ancora, una ricorrenza, attuale, sentita, partecipata, oppure se, siano, insomma, questioni un po' che sempre meno stanno a cuore della sensibilità delle persone, soprattutto delle generazioni più giovani, della nostra generazione, degli studenti di oggi, insomma, appunto, delle generazioni più giovani. Perché ci siamo detti che è inevitabile, è anche abbastanza naturale che per noi, voglio dire, il fatto di non aver vissuto certi anni, non aver vissuto un certo periodo, sicuramente può portare al fatto che magari abbiamo un minor slancio verso, appunto, la resistenza, verso i valori che la resistenza rappresenta e così via. Resta il fatto però che questo fatto che la nostra generazione, appunto, sia forse maggiormente distaccata dalla memoria della resistenza, noi abbiamo visto una duplice lettura. Da una parte il fatto che forse si potrebbe parlare, cominciare a studiare determinati aspetti, per esempio della resistenza, dei partigiani, di determinate tragedie e così via, in maniera forse un po' più distaccata, alzando un po' il viso dal quadro, per cui magari anche sfatando alcuni miti che sono stati costruiti negli anni. Dall'altra parte però il rischio è quello che si faccia di questa possibilità un abuso. Cioè il fatto che si ricostruisca una storia, si ricostruisca appunto la storia della resistenza con tutti gli episodi che l'hanno caratterizzata, tirandola un po' per la giacca, chi per un motivo, chi per un altro, appunto facendone un abuso, che, insomma, per noi che studiamo storia e che vorremmo cercare di farlo in maniera il più possibile, critica e, per carità, senza fuggire, la politica, però un conto è l'onestà intellettuale, un conto poi è il discorso politico. Insomma, questo discorso sicuramente è un discorso che ci spaventa, che può essere pericoloso. L'ambito in cui vorremmo inquadrare le nostre iniziative è questo. Per però, appunto, arrivare a discutere del problema politico, che sarà il tema dell'ultimo incontro che terremo probabilmente il 7 maggio, abbiamo pensato di prenderla un po' alla lontana, diciamo così, di farlo storicamente, che è quello che un po' ci caratterizza. E quindi di chiederci qual è la storia del 25 aprile, cioè come il 25 aprile, l'immaginario che si è creato, come il 25 aprile è stato, costruito come evento appunto di festa nazionale, di festa appunto, fondativa dell'Italia. Per fare questo però abbiamo voluto fare un altro passo indietro, e cioè per interrogarsi su qual è la storia del 25 aprile ci siamo detti, vabbè, ma come si arriva al 25 aprile? E quindi è questo il motivo per cui siamo qui oggi. Ringraziamo moltissimo il professor Granata, che è stato molto disponibile, ci ha aiutato nel costruire questo percorso. E siamo qui oggi appunto per chiederci questo, cioè il titolo era La catastrofe nazionale dall'8 settembre 43, cioè che cos'è stata la resistenza, che cos'è stata la RSI, quali sono i problemi che si sono determinati nel momento in cui, durante una guerra, appunto, è nata la resistenza, si è formata l'RSI, per cui, voglio dire, come si è arrivati poi al 25 aprile. E come detto, per fare questo ragionamento successo. abbiamo scelto di fare un passo indietro. Il professor Granata, è qui con noi per questo stamattina, quindi io gli lascio subito la parola, lo ringrazio nuovamente.